Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Luca Lucini, regista del film Le mie ragazze di carta, al cinema da giovedì 13 luglio 2023. Ben trovato. Salve, grazie della questa partecipazione. Qual è il tuo racconto? Questo è un film a cui sono veramente molto legato e lo considero per certi versi un nuovo esordio, nel senso che è un primo film in cui ho collaborato al soggetto, ho lavorato sulla sceneggiatura. E soprattutto un film a cui tengo molto perché è stato scritto da Mauro Spinelli, che è lo sceneggiatore grazie al quale in qualche modo è iniziato a fare cinema e che purtroppo è mancato 2 anni fa. È un film che ha vinto il premio Solinas nel 2007, non sono riuscito a realizzarlo fino adesso e adesso grazie anche a 302 e Pepito sono riuscito a realizzare questo piccolo grande sogno. Qual è la storia che narra il film? Il film racconta la perdita dell'innocenza di questo ragazzino, cioè quel periodo in cui insomma, si capisce che le pulsioni sono diverse, non ci sono solo i soldatini, i wheeler, la bicicletta, ma c'è dell'altro nel mondo. Ed è un racconto che mette in parallelo questa perdita dell'innocenza di questo ragazzino con, se vogliamo, una perdita dell'innocenza di un intero paese. Non a caso ambientato nel 1978, anno in cui c'è stato l'omicidio Moro, c'è stata la legge del divorzio, insomma in cui l'Italia stava cambiando profondamente. Questo non viene minimamente citato se non visto attraverso di questa famiglia contadina che si trasferisce nella metropoli Treviso e inizia ad avere esigenze diverse, aspirazioni diverse, insomma inizia a cambiare profondamente la società. Come era nato tutto? C'è una nota autobiografica, perché io sono nato davanti a un cinema dove è iniziata, credo lì, la mia grande passione. Andavo a vedere qualsiasi film, da Bud Spencer ai cartoni animati, a Incontri ravvicinati al terzo tipo, insomma qualsiasi cosa fosse in programmazione. A un certo punto mia mamma ha detto che non si poteva più andare, io non capivo perché, ma non sono più film adatti a te. No, ma a me piacciono lo stesso, mi piacciono tutti i film, e poi più più adulto ho capito cosa era successo e questo cambio, vedendolo un po' di distacco dopo anni, è stato quasi un cambio epocale, aveva tanti significati dentro che Mauro in realtà, portando la storia da Milano alla provincia di Treviso, ha semplificato rendendolo ancora per certi versi più poetico. Com'è stato il rapporto con i tuoi giovani protagonisti? È eccezionale, il grande successo per quanto mi riguarda di questo risultato e di averlo fatto esattamente come speravo venisse, è proprio nel cast, dai 3 ragazzini che sono eccezionali, Alvise capo in testa, ma anche Giacomo e Marta sono veramente straordinari e perfetti per quel ruolo. Addirittura Giacomo vive veramente in quegli anni, nel senso adora la musica di quegli anni, si veste come un ragazzo di quegli anni e quando ha scoperto che avrebbe dovuto guidare il cavalliere impazzito dalla felicità. E poi il cast adulto, eccezionale, ho corteggiato sin dall'inizio Andrea perché sarebbe stato un primo perfetto e quando ha letto il copione ha capito tutte le sfumature, le dinamiche di un personaggio così semplice, così naif e per quello così complesso da rendere. Maya si è messa in gioco con la commedia regalando veramente un personaggio inedito, perché anche per lei era un tono di film diverso da alcune cose che ha fatto e ha fatto un lavoro straordinario sul dialetto, aiutata a mastrare molto anche da Andrea. E poi questi personaggi che non mi sento di dire minori proprio perché sono importantissimi sul flusso narrativo, cioè Neri, interpreta questo prete allenatore di rugby con famiglia segreta in Bolivia, che ovviamente rappresenta anche lui in qualche modo un qualcosa che sta cambiando nella società. Il Caccamo, che ha fatto un lavoro straordinario, perché interpretare un personaggio travestito in quell'epoca con quella delicatezza e quella fragilità, creando poi appunto Andrea e Cristiano, si è creato quello che speravo io e anche Mauro che venisse fuori, cioè un'amicizia di rispetto dell'individuo che supera qualsiasi barriera, che è la cosa che trovo in realtà per certi versi molto attuale e molto necessaria da raccontare. Questo è un film che è bello condividere. Io ho fatto un po' di proiezioni, le prime che abbiamo fatto, tra l'altro tutte esaurite, quindi mi ha dato molta gioia. E c'era una bella atmosfera, cioè si rideva, ci si commuoveva, cioè passavano diverse emozioni, che è quello che un po' speravamo in una commedia, che è un po' di altri tempi, ma proprio per questo invece talmente nostra che può essere di nuovo distintiva. L'idea del titolo? È di Mauro, sì, perché un po' tutti noi abbiamo avuto in quell'epoca delle ragazze di casa in cui sognare, diciamo così, ed è una cosa che talmente sembra di un'altra era geologica ormai, e secondo me è interessante raccontarla ai giovani d'oggi. Mi sono stupito infatti anche i miei figli, i tuoi figli di 18 anni, 20 anni, come hanno recepito, come si sono incuriositi a un mondo che sembra veramente lontano anni luce. Adesso la scoperta della sessualità avviene in maniera totalmente diversa, senza giudicare meglio o peggio, meno peccaminoso se vogliamo, e questo loro l'hanno percepito come qualcosa di molto originale. E anche questo atto d'amore per il cinema in sala, in qualche modo spero che ai giovani colpisca, perché la speranza ovviamente, che il fatto che sia uscita adesso mi dà la soddisfazione che di nuovo stiamo vivendo una crisi della sala, e così come negli anni 70 poi è stata superata, spera che questa volta si riesca a superare. E i ragazzi sono speranzoso, perché infatti mi sarei mai aspettato, una decina di anni fa, mio figlio adesso appena esce un disco vuole subito un LP, cosa che era impensabile. Quindi la speranza è che succeda così anche nel cinema, che si torni ad aver voglia di condividere quell'emozione in tanti, come succede da noi, insomma, che i film li potevamo vedere solo al cinema. Il film Le mie ragazze di carta, al cinema da giovedì 13 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Lucini. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Emanuele Nespeca di Solaria Film, che distribuisce il film La sera di tutti i giorni di Felix Tissi al cinema da giovedì 13 luglio 2023. Ben trovato! Grazie Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Cosa racconta questo film? La sera di tutti i giorni, già dal titolo in qualche modo, cerca di raccontare il gioco grottesco, comico ma anche tragico della fine di tutte le cose, no? Insomma, ogni giorno ha una fine, che è la sera. Quindi la sera di tutti i giorni è un po' la nostra vita. Il regista vuole giocare con la caducità del tempo, con il fatto che troppo tardi sempre ci rendiamo conto che si potrebbe fare di più o si poteva fare diversamente. È anche un po' un gioco sulla fine degli affetti, ma anche sul desiderio continuo di amore che riusciamo ad avere in quanto esseri umani. Il film va visto con attenzione, perché pretende un'attenzione diversa da altre tipologie di film. È un film che ha caratteristiche molto simili al cinema nordico, soprattutto caorismati, viene in mente quando si vede. E il regista Felix Tissi, tra i suoi più importanti lavori c'è un Welcome to Iceland, che era stato a Locarno qualche anno fa, ed è un viaggio, anche questo, di una serie di persone tutte diverse tra di loro, ma che ricorda molto il Beckett di Aspettando Godot, piuttosto che anche lì la fine della sera. E anche in questo lavoro usa molto del teatro grottesco, il teatro dell'assurdo. È un film che racconta una realtà che sembra così reale da riflettersi nell'assurdità, insomma, dell'epoca. Cosa ti ha convinto di questo lavoro? Io sono anche produttore di questo lavoro, infatti questa è un'autodistribuzione, la si definisce in Italia, nel senso che sono abituato a distribuire alcuni prodotti che scelgo di produrre, soprattutto sono coproduzioni che faccio con altri paesi. In particolare questa è una relazione che ho con Peacock, che è una società svizzera. Siamo già alla quarta coproduzione insieme e mi piace molto un certo tipo di cinematografia che voglio preservare in quanto tutte le cinefilo, innamorato di un certo tipo di cinema che vuole far riflettere prima che divertire, ma che in qualche modo poi ti fa divertire perché ti ha fatto riflettere. Mi ha convinto la sceneggiatura, molto intrigante, perché parlava di un tema che è la terza età, che in qualche modo mi aspetta, non ci sono ancora arrivato, ma che mi fa molto pensare, cioè pensarmi fra qualche anno e quindi in qualche modo leggere le storie di questi personaggi che si attaccano alla vita o cercano ancora di amare o di interrogarsi su come mai ci si ammala, perché si muore. Mi ha affascinato. Che circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale? Il regista è molto apprezzato in Germania e è stato subito ospitato da un paio di festival tedeschi. Scusate la pronuncia, ma è stato l'anteprima l'ha avuta al Hofer Film Festival e poi ovviamente nel suo paese natale, dove ha fatto il Solo Turner Film Festival, che lo ospita sempre, e ha fatto le giornate di Soletta, che sono una manifestazione importante in Svizzera per il cinema. Poi dopodiché ha avuto aprile di quest'anno l'uscita in sala in Svizzera, partendo dal cantone italiano, per poi ha circuitato in tutti i cantoni, specialmente quello tedesco, perché il film in questo caso è in tedesco, un film che è stato realizzato in lingua tedesca e che vede noi italiani con una percentuale più piccola. Uno degli attori, Sandro Di Stefano, è italiano, il nostro attore. In quante sale sarà? In Italia sarà in circa 10 sale per il momento. Diciamo che vogliamo sfruttare della tipologia. Di solito i miei film hanno una vita molto teatrale, quindi hanno degli eventi e fanno delle tournée, per cui ci immaginiamo come sempre che dai 10 poi passa altri 10 e di settimana in settimana raggiunga tutte le città italiane. Per il momento siamo concentrati sul centro-sud, quindi Sicilia, Puglia, Calabria e Lazio. Via via con l'estate, normalmente le arene, così riesce a fare una buona circuitazione. I riferimenti web per sapere dove vederlo? Sul sito dello Scrittoio, che è l'agenzia di distribuzione che segue l'operazione, è scrittoio.net, o sul sito di Solaria Film, solariafilm.it. Abbiamo anche delle pagine Facebook che potete seguirci. Il film La sera di tutti i giorni di Felix Tissi al cinema da giovedì 13 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuele Nespeca di Solaria Film che lo distribuisce. A presto! Grazie a tutti! Con Alessandro Tavola di Cat People, che distribuisce il film Profondo Rosso di Dario Argento, di nuovo al cinema da lunedì 10 luglio 2023. Ben trovato! Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Il capolavoro, il film più noto di Dario Argento, per chi non lo conoscesse, per i più giovani magari, raccontiamo un po' il film. Profondo Rosso di Dario Argento, come dici, è di sicuro il più noto, almeno in Italia, ed è uno dei suoi tanti capolavori. È un film del 1975 ed è l'ultimo dei suoi film più realistici, ancorati alla realtà, un film molto fisico. Diciamo è la summa di tutti i thriller del periodo, sia di Argento sia di altri registi, e da alcune proiezioni che abbiamo fatto in anteprima funziona ancora oggi, non è invecchiato di un giorno, perché proprio ha un'atmosfera molto evocativa e soprattutto, tra le altre cose, la colonna sonora dei Goblin, forse più famosa del film stesso, aiuta a far sì che il film sia proprio un'esperienza completa. Al di là del giallo è proprio un'esperienza ipnotica, un film proprio da godere coi sensi sotto tutti i punti di vista, e questo è uno dei tanti motivi per i quali l'abbiamo riportato in sala. Ecco, riportarlo in sala oggi, come mai questa scelta? La scelta è caduta su di lui nei mille percorsi mentali e non, perché nel nostro progetto di Cat People, di riportare in sala classici, ma non classici in senso stretto, in senso bibliotecario, didascalico, museale, ma proprio classici pop noti da tutti, anche da chi non l'ha visto, in questo caso Profondo Rosso, portare in sala il pubblico né con un film nuovo del passato fosse diverso dall'offerta attuale delle edizioni, ecco, un film per tutti, in tutti i sensi, un film che sia di genere, sia d'autore, sia interessante per la sua vicenda, sia per, appunto, come dicevo prima, come esperienza audiovisiva, ecco. E lui era, come volte, il film simbolo di tutto un cinema del passato che ancora oggi è rigoglioso e senza seguiti, perché dopo quel periodo del jazz, dopo Argento, dopo altri registi, non c'è più stato nulla di equiparabile a quel tipo di cinema. Raccontiamo anche un po' l'esperienza di Cat People. Poi siamo adesso, dopo anni di gestazione, siamo io e Raffaele Petrini. Raffaele Petrini ha avuto già esperienza di distribuzione e di cinema all'estero, in Brasile. Essendo italo-brasiliano, lui rappresenta la parte più pratica di tutta la faccenda. La nostra idea nasce completamente dal basso, anche attualmente diciamo che siamo totalmente indipendenti e lo facciamo tutto da soli, e il nostro progetto a lungo termine è appunto quello di riportare in sala, come accennavo, classici di ogni genere, perché detta così potrebbe sembrare una cosa dedicata solamente al cinema di genere o cosiddetto tale, mentre noi vorremmo andare a 360 gradi riportando quel cinema che piace a noi, quel cinema degli ultimi decenni che non è ancora stato celebrato, che non è ancora considerato storico in senso assoluto, e anche quel cinema più recente che ha un suo pubblico, soprattutto pensando agli spettatori più giovani che per questioni anagrafiche non hanno potuto vedere certi film al cinema, perché per noi l'esperienza cinematografica rimane comunque un elemento centrale, non assoluto, questo sarebbe un po' vetusto da dire, ma è fuori di dubbio che l'esperienza di un film visto in sala, nelle condizioni migliori, sia una cosa completamente diversa dal vederlo o rivederlo semplicemente a casa. In quante sale uscirà? Attualmente abbiamo appena sfondato le 100 sale per quanto riguarda questo primo lancio, perché contiamo poi di portare in giro tutta l'estate, perché comunque sarebbe stato impossibile raggiungere tutte le zone desiderate. In questo momento siamo a 100 sale e poi ci auguriamo che il film possa proseguire il suo viaggio per tutta l'Italia lungo tutta l'estate e anche oltre magari. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Potete seguirci su Instagram, che tipo di distribuzione, l'immagine di profilo è un gatto, banalmente. Idem su Facebook, che tipo di distribuzione, mentre il sito con anche l'elenco sempre aggiornato delle sale è catpeople.it. Il film Profondo Rosso di Dario Argento, di nuovo al cinema da lunedì 10 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tavola di Cat People che lo distribuisce. A presto! A presto, ciao a tutti, grazie. Con Paola San Giovanni, regista del documentario Nel cerchio degli uomini, su Rai 3, giovedì 13 luglio 2023, ben trovata. Ben trovato. Che storia hai raccontato? Ho raccontato diverse storie che si intrecciano, direi, sia personali che collettive, quindi storie personali che diventano anche la storia collettiva di un gruppo di uomini che da diversi anni cerca di stare al mondo come maschi in un modo diverso, cercando appunto di trovare una strada alternativa ai riferimenti del patriarcato. Una cosa molto difficile, queste storie, questo percorso, perché appunto come se si trattasse oggi andare a parlare di cose che sono invisibili, perché siamo tutti dentro le stesse dinamiche di diktat, anche di comportamento, e quindi non riusciamo a vederli. Ecco, quello che loro cercano di fare è di scardinare proprio un modo generale di stare al mondo, e che ha a che fare naturalmente con gli stereotipi di genere, con l'identità di genere, e anche con però la possibilità di un cambiamento del maschile. Quindi si parla di un tentativo, ecco, di nuova maschilità, e naturalmente di stereotipi di genere e anche di violenza maschile contro le donne. Questo, ti dicevo, un gruppo che è a Torino e si chiama appunto l'Associazione del Cerchio degli Uomini, e loro hanno cominciato con questa modalità di riunirsi, di mettersi in cerchio appunto e parlare di se stessi, delle loro esperienze, mettendo in campo anche l'emotività, l'emozione, dando valore anche alla fragilità, ma soprattutto ad un tentativo di relazione orizzontale, ecco, dove non c'è nessuno che sta sopra, sta sotto. È un tipo di comunicazione, di ascolto anche emotivo. Come hai incontrato questa storia e come hai deciso di raccontarla? Tanti anni fa, quando ero ancora in post-produzione del mio film che si intitola La ragazza e la vita trema, avevo letto per caso un articolo che parlava proprio di alcuni gruppi che sparsi per l'Italia, di uomini che facevano appunto questa sorta di autocoscienza e che avevano da poco deciso di creare una rete nazionale che è poi diventata la rete maschile plurale. E quando appunto ho letto, sono stata molto colpita, molto sorpresa e curiosa naturalmente di conoscerli, e quindi ho cominciato un po' a seguirli, inizialmente soprattutto Stefano Ciccone, che appunto ne ha fatto proprio un'elaborazione anche molto radicale, direi filosofica, e insieme a diversi altri che sono presenti in vari gruppi sparsi per l'Italia. E poi sono approdata a questo gruppo del Cerchio di Torino e ho pensato quindi di raccontare queste storie attraverso proprio la loro esperienza, perché loro sono effettivamente un gruppo che agisce, fa delle cose molto concrete e anche molto fuori dall'ideologia. Questa anche è una cosa per me che sarà molto importante per la scelta. E quindi niente, li ho contattati ed è stato un lungo percorso, da una parte per farmi produrre il film e trovare un interlocutore produttivo, perché non si riusciva bene a capire di che cosa volessi parlare, di cosa volessero parlare loro. Evidentemente c'è stato anche un piccolissimo cambiamento di mentalità negli ultimi anni. Io poi l'ho interpretata in questo modo, ecco, questo trovare invece una sponda addirittura in Rai, insomma il film poi andrà in onda in prima serata e Rai Documentari l'ha accolto con un grandissimo favore, un grande interesse. Quindi mi rendo conto che è un lavoro inedito e che anche il fatto che io sono una donna, che quindi il mio sguardo si intreccia con i loro, è una cosa che probabilmente aggiunge anche interesse. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Il sito sia di Rai Documentari che della produzione Contiki, che ha coprodotto insieme a Rai Documentari il film, che è una nuova produzione di Francesca Zanza, Daniele Vicari e Andrea Corporati, è nata 3 anni fa. Il documentario Nel cerchio degli uomini su Rai 3, giovedì 13 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Paola San Giovanni. A presto! Grazie. Con Francesco Dobrovic, direttore creativo della 6ª edizione di Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale a Roma, complesso ENI del Gazzometro Ostiense, dal 13 al 16 luglio 2023. Ben trovato! Ciao, ciao, grazie dell'ospitalità. Cos'è questo festival? È un festival unico che permette al pubblico di immergersi in cultura e in un'esperienza è totalizzante, perché è un festival ricco di appuntamenti e possibilità. Giornate professionali nel pomeriggio dove si possono incontrare i professionisti che vengono da best practice europee, nazionali e internazionali, addirittura anche da Sud Corea, nell'ambito dell'audiovisivo contemporaneo, e quindi c'è la possibilità di incontrarvi, di conoscervi, di creare ponti, magari anche nuove occasioni. Poi ci sono tantissimi talk di approfondimento in cui parliamo dei trend topic del momento, quindi metaverso, intelligenza artificiale e creators. Cosa vuol dire essere oggi un creator? Perché è importante? Perché è considerato un nuovo lavoro? Che prospettive ci sono? Dove è la qualità anche in questo lavoro? E poi tantissimi show. Ci sono degli show legati alla musica e a nuove frontiere di intrattenimento. Quindi avremo, non so, Quidley, avremo Dixon, avremo Ginevra, Ginevra Nervi, Bunker 44. Avremo tantissima musica. Ognuna di queste forme musicali sarà accompagnata da uno show visuale specifico fatto ad hoc, grazie anche al supporto di Non Collective. Poi avremo una grande installazione che si ispira al Performance di New York, che purtroppo è stata battuta, ma questo perché io, avendo fatto per anni un altro festival outdoor legato alla Urban Culture, mi sono portato dietro questo background e cerco di l'ho trasformato in video. Come era nato tutto? Ogni edizione di Videocittà nasce da un'approfondita ricerca di quelle che sono le tendenze più nuove nel nostro settore della cultura. Noi lavoriamo con il video. Il video oggi è uno strumento di straordinaria potenza comunicativa e incredibilmente versatile. Puoi andare ad un concerto di chiunque e vedere dei visual oggi interessanti. Io torno adesso da Barcellona, dove ho avuto la fortuna di vedere Art Light, di vedere questo show incredibile che c'è lavato, che sta girando tantissimo sui social, come contenuto che è diventato assolutamente virale. Ecco, noi ci dimentichiamo di questo durante tutto quanto l'anno, quindi ogni anno nasce così come edizione di diversità. Cerchiamo di portare all'interno del nostro festival la proposta migliore possibile. Come hai voluto caratterizzare l'edizione di quest'anno? L'edizione di quest'anno si caratterizza grazie a questo sito su cui abbiamo l'onore di poter lavorare. Videocittà ha sempre lavorato molto in grande relazione con i luoghi in cui ha operato, no? Abbiamo fatto grandi installazioni a Pantheon, il giardino delle cascate all'Eur, il palazzo dei congressi, il Consolo Quadrato con Femi nel 2018. Ho sempre lavorato molto in interazione con i luoghi. Qui la cosa incredibile è che riusciamo a creare proprio una città del video, quindi veramente una videocittà. L'elemento madre di questa città è sicuramente il monumento simbolo di quest'area di archeologia industriale, che è il gasometro più alto d'Europa, 96 metri d'altezza, che noi per la seconda volta trasformiamo e utilizziamo per accogliere un'installazione specifica audiovisuale quest'anno straordinaria, con il musico originale di Nest e con contributi o video di Tina Sveta, che sono top 5 studi di creazione di contenuti per grandi show. Basta dire che sono coloro che hanno fatto contributi per la cerimonia di apertura e chiusura di Panarchi. Quanti sono gli artisti e le artiste coinvolti in questa edizione? Il numero esatto non lo so, sono diverse decine di talenti che contribuiscono alla creazione del palinsesto di Videocittà. Quello che posso dirti è che quest'anno il palinsesto è un palinsesto che è ruotato su alcuni parametri, e questi parametri sono stati una scelta di un bilanciamento tra contenuti provenienti da talenti e artisti di diverso genere, quindi anche un bilanciamento uomo-donna e altro piuttosto regolare, il più regolare possibile, e poi naturalmente anche con un bilanciamento legato all'espressione di creatività che proviene comunque dai nostri territori. Potrebbe sembrare una retorica populista, ma in realtà non lo è, perché noi, legati anche ad Anica, che poi è l'associazione di categoria, l'aggiuntivo principale che c'è in Italia, abbiamo proprio l'interesse di far sì che ci sia un'esposizione all'interno di Videocittà di quelle che sono le eccellenze delle professioni che oggi abitano i territori dell'audiovisivo. Quindi abbiamo sicuramente tanti contenuti che vengono dai nostri territori, circa il 50%, il 60%, mentre poi il resto è tutto molto bilanciato tra contenuti tra uomini e donne, che sono cose che mi fa molto piacere sottolineare, perché non è scontato. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? sul nostro sito www.videocittà.com, dove si trovano tutti i dettagli, orari e naturalmente social network, principalmente Instagram. Sesta edizione di Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale a Roma, complesso ENI del gasometro Ostiense, dal 13 al 16 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore creativo Francesco Dobrovic. A presto! A presto e buon ascolto a tutti voi. Con Sergio di Cinemaforte per presentare l'Arena 100 Celle City Movies al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma il martedì e il giovedì dal 13 luglio al 1 agosto 2023. Ben trovato. Ciao a tutte, ciao a tutti. Raccontiamo un po' di questa arena. Anche quest'anno siamo molto contenti di proporre 100 Celle City Movies, che è una doppia arena in realtà estiva a 100 celle fra il Parco delle Palme di fronte al Forte e dentro il Forte, quindi siamo tutte molto stanche, quest'anno molto intenso, e nonostante ciò il Forte si è preso in carico di gestire queste due arene, con la partecipazione ovviamente degli spettatori e delle spettatrici, che immagino che saranno sensibilissimi allo spirito e ai concetti legati all'autogestione, che quindi ci aiuteranno a fare questa bellissima rassegna, non creandoci complicazioni in corso. Quindi ecco, questo è un modo un po', diciamo, preso largo per spingere tutti quanti e tutte quante ad aiutare, non solo noi, ma qualunque realtà di movimento e centro sociale che organizza cose, ecco, nello spirito dell'autogestione. Quindi siamo riusciti a mettere insieme questa rassegna, le proposte del l'ultimo anno e mezzo al cinema ce n'erano, e la selezione che abbiamo tirato fuori è quella che abbiamo ritenuto che ci piacesse di più. Saranno 6 giornate, quindi dal giovedì 13 luglio a parte di 1 agosto, per appunto 2 arene in contemporanea, quindi 12 film. Ci saranno filmoni del cinema super popolare che a noi comunque piace proporre, ci saranno anche delle presentazioni, quest'anno soltanto 2, di cui terrei in particolar modo a parlarvi, che sono 13 luglio, fuori nell'Arena Grande presentiamo il secondo episodio di Black Panther Wakanda Forever, e dentro ci sarà la presentazione del documentario sull'esperienza di XM24 a Bologna, finita tragicamente nel 2019, dico tragicamente perché è un'esperienza con cui di Forte aveva particolari legami, ma era comunque un'esperienza di autogestione, occupazione splendida e favolosa, e Letizia Donolini, Nicola Donadio e Silvia Polo Monari hanno realizzato questo documentario. È un documentario che è stato realizzato a più mani, non soltanto dai nomi di queste tre registe che vi ho nominato, è un film che mette insieme vari formati, al titolo è Come una foresta in città, è distribuito da Distribuzione al Basso, che noi insomma come Forte dal nostro piccolo ringraziamo tantissimo per il lavoro tenace di distribuzione di cinema indipendente e anche militante che fanno. E niente, è un film corale dove sia in termini di messa insieme, assemblaggio che di registrazione, per cui un film con tanti formati video, sono tanti materiali di repertorio, è stato girato a più mani in più momenti, e insomma diciamo che questo documentario è come una foresta in città che ci restituisce lo spirito e l'esperienza XM24, insomma siamo contentissimi di presentarlo, è uscito il 3 luglio, quindi insomma una super prima. Poi i giorni successivi appunto ci sarà l'ultimo di Cronenberg, l'ultimo di Guadagnino, ci sarà l'ultimo dei fratelli Dardenne, il film di Ostrund Triangle of Sadness, l'ultimo di Abruzzese Disco Boy, insomma cinema anche grosso, diciamo, non necessariamente indipendente, però diciamo che toccano temi e anche diciamo il modo in cui presentano il cinema a noi ci piace moltissimo. E per quanto riguarda le arene interna, appunto ci sarà il film sulla questione israelo-palestinese, quanto è sempre complicato in vivere in quella terra, attraverso il film di Naisè 200 metri, e giovedì 20 luglio ci sarà l'altra presentazione, Erasmus a Gaza, di Chiara Besani e Matteo Del Bo, e questo è un film che a noi di nuovo sta particolarmente a cuore, in quanto racconta sì di Gaza e racconta dell'esperienza degli scambi culturali Italia-Gaza che sono promossi ormai dal 2011, dalla perdita di Vittorio Arrigoni e con la fondazione del Centro BIC. Grazie a Mary Calvelli, grazie a Sami, grazie a tutti quelli e tutte quelle che hanno sostenuto il Centro Culturale BIC in questi più di 10 anni di attivismo. E Erasmus a Gaza è un film che super dignitosamente restituisce un aspetto dell'attività del Centro BIC, che è stata quella di organizzare gli scambi interuniversitari tra l'Università di Gaggia e l'Università di Siena in questo caso, e quindi attraverso una parte per il tutto di quello che fa il grandissimo lavoro del Centro VIC abbiamo modo di toccare con mano, di entrare un po' più dentro le questioni della Striscia di Gaggia, fuori dai grandi clamori della comunicazione di massa, e restituire quello che ha appunto anche il grossissimo lavoro del Centro VIC, che col Gaggia Freestyle Festival, con tutte appunto le operazioni di Erasmus, con l'apertura di tutta l'area a nord al confine con Israele, con la costruzione del grandissimo skate park, della tenda circo e l'avviamento in questo momento sempre all'interno del Gaggia Freestyle Festival della Casa Internazionale delle Donne, insomma porta avanti un lavoro che è riduttivo definire straordinario. Quindi speriamo di avere Mary Calvelli con noi alla presentazione, avremo sicuramente Letizia e Silvia, che sono due delle registe, poi sempre in arena esterna a concludere le giornate proietteremo Atena, un po' un tributo controverso, ma a noi ci piace anche il cinema controverso, che ci porta anche a discutere, a metterci in discussione, e Atena di Gavras, e Gavras diciamo che è un nostro tributo a Nael e a tutte le uccise, tutti gli uccisi nelle balie di Francia e di tutti gli esclusi del mondo, insomma. Quindi diciamo che, visto quello che è recentemente occorso a Parigi, a Nanterre, in tutta la Francia, ce la siamo sentita proiettare questo film che, ripeto, è un prodotto Netflix, è una super exploitation, ma vabbè, ha quei primi 40 minuti magistrali di un piano sequenza che non sto troppo a raccontarvi, però insomma diciamo che è un ottimo modo per, anche nel momento del divertimento, confrontarci con certi temi. Poi ci sarà un tributo al maestro Maselli, che ci ha lasciato purtroppo, e proietteremo Le Ombre Rosse, che è uno delle sue ultime fatiche cinematografiche, super stimolanti dal punto di vista della riflessione di cosa il cinema può apportare sul piano delle lotte. E poi in chiusura l'ultimo documentario della premiata Laura Poitras, Tutta la bellezza e il dolore. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Trovate tutto quanto su www.portepreestino.net e sul canale Facebook Eventi CSOA Porte Preestino e Cinema Forte, che in realtà, come diciamo, chiocciola di Facebook è Forte Cinema. Siamo inconfondibili perché tra i vari Forte Cinema siamo l'unico autogestito, quindi non potete sbagliarvi, facciamo riferimento insomma al CSOA Porte Preestino. Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il martedì e il giovedì dal 13 luglio al 1 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. A presto! Grazie, grazie, grazie, grazie alla radio, grazie a tutti e a tutti. Con Antonio Bellia, direttore artistico della 15ª edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo dal 17 al 22 luglio 2023, ben trovato. Grazie Federico. Raccontiamolo a chi non lo conosce, cos'è? È un festival di cinema, ovviamente, che è sul tema diritti umani e ambiente, quindi sullo sviluppo sostenibile. Siamo nati nel 2009, siamo arrivati alla 15ª edizione e quindi vogliamo che sia un'edizione importante, ma anche che ci permette di festeggiare questo traguardo che abbiamo raggiunto di 15 edizioni. Si parte con una serie di eventi speciali. Apriamo con un omaggio al ricordo delle vittime del disastro dell'Emilia Romagna, con un incontro con Francesco Fasciolo, caporedattore di Repubblica della TV, cioè di TV, cui parleremo del ruolo della stampa sulla considerazione dell'ambiente da parte della stampa e di quanta responsabilità anch'essa abbia nell'indifferenza che molto spesso c'è tutto un ambiente, cambiamenti climatici, disastri e così via, e non nel momento dell'emergenza. E poi avremo subito dopo Max Paiella, che ci sarà uno spettacolo breve di saluto e introduzione a questa 15ª edizione, e poi finalmente partiremo con la programmazione dei film. Quanti sono i film nel complesso e com'è strutturato? Sono più di 40 film, sono strutturati in 4 sezioni competitive più una sezione panorama. 4 sezioni sono la sezione documentaria, la sezione fiction, lungometraggi, la sezione cortometraggi, la sezione animazione, e poi c'è una sezione panorama dove abbiamo appunto alcuni eventi speciali e alcuni altri eventi a cui teniamo particolarmente dedicati per tutti i ragazzi. Sezione documentari sono 8 documentari che provengono da varie parti del mondo, da Israele, Francia, Germania, Polonia, Belgio, Svezia, insomma, così via, e i temi trattati sono sempre appunto riguardanti i due grandi filoni riguardanti lo sviluppo sostenibile, quindi diritti umani e tutela dell'ambiente. Partiamo da film in anteprima nazionale come Pacific Fantastic, che già il titolo dice tutto, ha un'altra premier italiana, un film israeliano, Children of Peace, che racconta un pezzo di storia importante in quell'area geografica. E poi abbiamo un film sulla Bielorussia, Young Belarus, The Illusion of Abundance, sulla Macedonia. E poi abbiamo dei film italiani come Il tempo dei giganti, che racconta il disastro che sta avvenendo in Puglia sugli ulivi, la morte di secolari straordinari, un dramma tragedia veramente incredibile. Oppure abbiamo come un altro film sempre italiano, sempre documentario, abbiamo La scelta sulla NOTAP, la battaglia sulla NOTAP e tanto altro, insomma. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Sì, sì, quest'anno c'è un'adesione fortissima da parte dei registi, circa il 70% degli autori che sono presenti alla festival, riuscendo anche a festeggiare quest'anno un po', oltre a parlare di temi veramente molto tostissimi, a volte drammatici, ma dobbiamo farlo anche con una leggerezza, insomma, che c'è data dalla presenza di tanti ospiti. Com'è stata la scelta dei titoli? È stata complessa, non è stata quest'anno facilissima, sono arrivate tante opere e l'idea è stata quella di diversificare il più possibile i temi trattati, quindi non soffermarsi sempre sui temi solitamente trattati da spesso, ma cercare di allargare il più possibile gli orizzonti. E la qualità dei film è stata, direi, buona, abbastanza soddisfacente. Sui film di finzione lì è sempre un po' più complicato, perché sulla tematica, soprattutto sull'ambiente, non è che ci sia una grande offerta. Forse citartene uno, abbiamo Siccità, ovviamente, che tratta il tema dell'ambiente, anche se insomma in realtà è più una cornice che un vero proprio trattare il tema. C'è un film bellissimo che si chiama I sogni abitano gli altri, sul tema della salute mentale, stiamo parlando sempre di fiction. Abbiamo Le otto montagne, tratto dal libro, anche il film devo dire che ha riscosso un sacco di successo. E poi abbiamo Girl Don't Cry di Andrea Giuliani, che è un film molto delicato sulle relazioni, sull'amicizia e sulle tematiche LGBT. E poi abbiamo Evelyn tra le nuvole con Violante Placido, che è stata una nostra amica, che è stata qualche anno fa in giuria da noi al festival, quindi accogliamo il film con molto piacere. E anche questo è un film relativo all'ambiente, alla vita di comunità. E poi abbiamo anche Il Signore delle Formiche, un programma molto vario con temi molto diversificati. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sì, la 17 luglio a San Vito Capo, provincia di Trapani. Trovate tutto il programma sul www.festivalsicilianambiente.it e su Instagram Facebook, e poi speriamo che qualcuno di voi decida anche all'ultimo momento di fare un biglietto aereo o di treno, che è più ecologico, e venire da noi, e siamo felici di sapere che ci avete ascoltato in radio e che siete venuti per questo. 15ª edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo, dal 17 al 22 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Bellia. A presto! Grazie Federico di ospitarci tutti gli anni nella tua trasmissione. Un abbraccio grande a tutti e speriamo prima o poi di averti anche a te, te lo dico ogni anno, ma ancora non sei. Con Gianfranco Cabiddu, direttore artistico della 17ª edizione di Creusa de Ma a Carloforte dal 18 al 23 luglio 2023, ben trovato! Ciao a tutti, grazie! Presentalo per chi non lo conoscesse. È un festival che guarda il cinema dal punto di vista della musica, dal punto di vista del suono, e quindi da quella parte che poi alla fine è metà di un film su cui si mette meno attenzione che alla parte invece, diciamo, più appariscente, la regia, gli attori, le scenografie, ma soprattutto per quanto riguarda la musica è la parte più emotiva di un film, è la parte che racconta qualcosa che non è possibile dire solo con le immagini o con le parole, ma suggerisce, suggestiona e dà in qualche modo anche l'atmosfera a quelle immagini. Immaginate dei film con una musica completamente diversa, non sarebbero gli stessi. Com'era nato tutto? Ricordiamolo. Intanto è nato per la mia passione per la musica, perché io nasco come musicista, poi è nato con la volontà praticamente di riflettere a appunto sulla parte sonora di un film, che non è solo la musica, ma sono anche gli effetti, sono anche le atmosfere, i rumori, la stessa recitazione degli attori, l'intonazione della recitazione. Ed è nato in un'idea che vedeva le quattro isole minori della Sardegna, cioè la Maddalena, Tavolara, la Ginara e San Pietro, Carloforte, dove siamo noi, e dividersi un po' i compiti per raccontare un po' quello che formava un film, per cui gli attori alla Maddalena, dove appunto ha soggiornato ed è sepolto Gian Maria Volontè, il festival più antico che c'è in Sardegna, che è il festival di Tavolara, Una notte in Italia, che di solito appunto ha film con i registi e gli attori, e poi la Ginara per riflettere sulla parte della scrittura di un film. E noi a Carloforte abbiamo molto felicemente preso la musica, intitolando il festival a una canzone di Fabrizio De André, perché Carloforte è un enclave genovese di pescatori genovesi di Pegli, che erano andati a Tabarca a pescare corallo eccetera, e poi hanno accerchiati, ma questo già nel Settecento, poi si sono trasferiti tutti a Carloforte, per cui è un'isola dove si parla genovese, un'isola in mezzo al Mediterraneo, un'isola aperta a tutte le contaminazioni, e ci sembrava anche il luogo adatto a parlare della musica, che per definizione è senza frontiere, per cui si legge nella stessa maniera in tutto il mondo, e ha a che fare con la parte appunto emotiva del film. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? Noi da 7 anni, ma da 5 anni in maniera molto più strutturata, portiamo avanti un progetto che si chiama Campus, che vede i giovani allievi del Centro Sperimentale nelle discipline della regia, montaggio e suono, uniti a degli allievi appunto di questo campus, che sono musicisti che arrivano un po' da tutta Italia, giovani musicisti, vivere insieme il festival come un'esperienza di vita da condividere, in modo da incontrarsi, da scambiarsi diversi linguaggi, e queste sono tutte le figure che compongono la filiera del suono nel cinema, a partire dal regista, dal musicista, da chi monta il film e quindi chi dà il respiro e il ritmo al film, e dai tecnici del suono che poi lo mixano e montano il suono e fanno gli effetti sonori, per cui c'è questa parte esperienziale ma anche didattica, perché la mattina gli ospiti del festival, che sono di solito maestri, io porto sempre il regista e compositore, proprio per raccontare l'indicibile, cioè l'incontro tra due artisti che praticano due discipline estremamente diverse, come comporre musica, che è una cosa astratta, e fare la regia, che è una cosa molto concreta. E per cui l'incontro tra queste due persone sono le masterclass che tutti i ragazzi vedono, poi ovviamente godono del film, ma soprattutto vivono insieme, che credo che sia l'esperienza migliore per condividere poi una sensibilità. E nel corso degli anni abbiamo avuto per fortuna un sacco di coppie regista-musicista che si sono create attraverso questo percorso, che poi noi continuiamo lungo l'anno preparando i musicisti e incrociandoli spesso sia con i montatori, con i registi, con quelli del suono, e quindi producendo poi le colonne sonore. Gli ultimi corti CSC hanno le colonne sonore prodotte in questo percorso. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? festivalmusicapercinema.it, Preusadema Musica per Cinema, e poi ci sarà, ecco, proprio per sollecitare un'esperienza, sì, un'esperienza importante, un grande musicista come Mauro Pagani, che ha fatto moltissime colonne sonore, 7 se non vado errato, per un premio Oscar come Gabriele Salvatore, più tanti altri film, ma è arrivato a Carloforte con Fabrizio De André proprio per girare il video e per assaporare questo suono della parlata genovese mischiata ai suoni del Mediterraneo per Creusademà, e quindi il comune gli darà la cittadinanza onoraria. C'è un concerto che lui farà appunto, dove il comune è coinvolto in prima persona, proprio per raccontare questo che è un viaggio. In realtà noi, mettendoci in questa isoletta in mezzo al Mediterraneo, come ogni isola, abbiamo la possibilità di andare in tutte le direzioni, quindi è un buon augurio appunto per il futuro del cinema da questo punto di vista, che è il punto di vista del suono. 17ª edizione del Festival di Musica per Cinema Creusa de Ma a Carloforte dal 18 al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gianfranco Capiddu. A presto! Grazie a voi, veniteci a trovare. Con Carmelo Galati, ideatore e direttore artistico della 5ª edizione dell'Arena Cinema City, il cinema nelle piazze, a Palermo, terrazza di Padre Messina, al Foro Italico a Sant'Erasmo, dal 17 al 23 luglio 2023. Ben trovato! Ciao Federico, grazie come ogni anno per darci disponibilità e ospitarci. Siamo felici, siamo al 5º anno, significa che la manifestazione è cresciuta, stiamo maturando. È matura la comunità attorno a Cinema City, perché ogni anno il pubblico si fidelizza, abbiamo tante richieste, partecipa sempre di più in maniera entusiasta alla manifestazione. L'anno scorso abbiamo raggiunto più di 4.000 persone, quest'anno la previsione è di raggiungerne più di 5.000. Com'era nato tutto? Semplicemente dall'idea di portare un po' del mio bagaglio amicale, della mia rete professionale da Roma a Palermo. Dopo l'esperienza del Cinema America, il Cinema delle Piazze, questo contagio che ci fu dopo il Teatro Valle, le varie occupazioni in vari luoghi, di restituire e fare un po' di formazione anche dal basso, sono tornato a vivere nella mia città e ho pensato di ideare questo cinema nelle piazze, Cinema City. La prima edizione è stata un'edizione felice, piccola, ma molto partecipata. Siamo stati in giro per la città, poi l'arrivo della pandemia ci ha costretto incredibilmente a cercare spazi più larghi, più grandi per poter ospitare e contingentare la gente. E questo problema qui in realtà adesso è la natura di Cinema City, perché ogni sera ci sono più di 800 persone e quindi abbiamo bisogno di spazi grandi. E come ogni anno lo facciamo in spazi aperti, la città da rivalutare, rigenerare. Quest'anno torniamo a Sant'Erasmo, che è la nostra casa, sul lungomare di Palermo. Come si caratterizza l'edizione 2023? Guarda all'arte come impegno sociale e civile. Vuole programmare dei film che hanno un forte valore sociale e civile. E abbiamo guardato ai temi che ci stanno molto a cuore. Siamo in una terra purtroppo delicata dal punto di vista della mafia e dell'antimafia, ma poi guardiamo al mondo del lavoro, guardiamo al mondo dell'infanzia, in particolare alle sfide dell'infanzia, e poi guardiamo ai diritti sociali e guardiamo ai conflitti nel mondo. Quanti sono i titoli in programma? Quest'anno i titoli in programma sono ben 15. Abbiamo una sezione orizzontale di cortometraggi, sempre in collaborazione con Rai Cinema e Centro Sperimentale Documentario e con Emergency. Sono dei cortometraggi che hanno girato vari festival in giro per il mondo. E poi abbiamo 7 lungometraggi, abbiamo dal film di intrattenimento, quello più impegnato, ai documentari, ai film di animazione. Apriamo con un titolo che mi sta molto a cuore, perché è un dialogo che nasce da tempo con una cara amica, Roberta Torre, che non viene in città da 10 anni, e affrontiamo il tema della mafia in maniera differente, come solo Roberta sa fare, guardandolo da una prospettiva con una cura anche ironica, sarcastica, ma efficacissima. Ed è il primo titolo, è Tano da morire. Il giorno dopo andiamo subito a fare un discorso sull'infanzia, sui bambini, e facciamo una serata in collaborazione con Save the Children, che ci presenterà la serata con un film di Gianni Amelio, Il ladro di bambini. Il giorno dopo è una serata per noi molto particolare, il 19 luglio è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Noi tutti gli anni dedichiamo quella giornata alla memoria di Paolo Borsellino, che ci insegna che è giusto nel proprio piccolo fare ognuno il proprio mestiere, farlo bene, farlo all'altezza dei desideri che abbiamo. Noi lo facciamo così e quella sera presentiamo un lavoro di Francesco Paterno che si chiama La guerra dei vulcani, un triangolo amoroso, una guerra d'amore di cinema tra la Magnani, la Bergman, per contendersi Roberto Rossellini. Il giorno dopo, un omaggio, come ogni anno, facciamo un omaggio a un grande del cinema italiano. Quest'anno è l'anniversario, avrebbe compiuto 70 anni il grande Massimo Troisi, il Massimo nazionale. Proiettiamo, scusate il ritardo, ci sarà un video contributo di Giuliana Desio e ci racconterà un aneddoto di incontro di questo grande personaggio che è Massimo Troisi. Il giorno successivo siamo arrivati al 21 di luglio e abbiamo tutta la vita davanti. Facciamo un discorso sul lavoro. Ci sarà l'avvocato Pietro Pizzini, un esperto di diritto del lavoro, a parlarci di cosa significa il lavoro, la sua difficoltà a trovarlo, il precariato, la sua difficoltà a tenerselo. Ma lo facciamo poi vedendo un bellissimo film, forse solo come Paolo Virzì sa fare, toccare temi così alti e profondi, ma in maniera delicata, anche addirittura facendoci sorridere, come solo lui sa fare. Andiamo verso la fine di questa rassegna e iniziamo un discorso su Paolo Sorrentino. Lo continueremo nel corso degli anni proponendo alcuni suoi film, ma quest'anno vogliamo iniziare col suo debutto, col film che ha anche lanciato l'attore più richiesto del panorama del cinema italiano, che è Tony Servillo, con il bravissimo Andrea Renzi, e quindi proiettiamo L'Uomo in Più. E caro Federico, chiudiamo come ogni anno facendo un omaggio ai bambini, a coloro che saranno il nostro futuro, e li invitiamo a non perdere mai la speranza, ad occuparsi, ad avere coraggio, a non dubitare mai delle proprie qualità. E lo facciamo con un manifesto del cinema di animazione, e quindi un film per bambini da 0 a 90 anni, ed è La spada nella roccia. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Assolutamente, volevo ricordare che appunto la collaborazione con Rai Cinema è sempre grata e prestigiosa, siamo felici di avere sempre Rai Cinema con noi che ci dà i cortometraggi in testa. L'altro cortometraggio bellissimo con Emergency sarà la serata del 19, proiettiamo il bellissimo film di Simone Massi, A guerra finita, un omaggio a Gino Strada, e poi le collaborazioni col Centro Sperimentale, che ho già detto. E i riferimenti social sono sui canali Facebook e Instagram, Cinema City Palermo, trovate tutte le informazioni e anche una bellissima library dei nostri lavori nel corso dell'anno e dei nostri prossimi ospiti, e quello che sarà il progetto Cinema City prossimamente. Quinta edizione dell'Arena Cinema City, il cinema nelle piazze a Palermo, terrazza di Padre Messina al Foro Italico a Sant'Erasmo, dal 17 al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore artistico Carmelo Galati. A presto! Grazie Federico, sempre per l'ospitalità, grazie a tutti, viva Onda Rossa! Con Elisabetta Antonioni di Cinemovel per presentare la 18ª edizione del festival itinerante Libero Cinema in Libera Terra dall'11 al 20 luglio 2023. Ben trovata. Grazie Federico e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Spieghiamo cos'è. Libero Cinema in Libera Terra è un festival di cinema itinerante che per il 18° anno attraversa il nostro paese e monta lo schermo sui beni confiscati, nelle piazze, nei quartieri. In questo momento siamo a Messina, in un bene confiscato, un terreno che vedrà la magia del cinema. È un grandissimo campo sul mare, un bene confiscato nel quale stanno lavorando il presidio di Libera Sicilia, e ci sono 30 ragazzi e ragazze che arrivano da tutta Italia per una settimana di lavoro su questo campo, e stasera con noi vivranno l'esperienza della proiezione collettiva partecipata, che è la cifra di Libero Cinema in Libera Terra. Libero Cinema in Libera Terra nasce, dicevo, 18 anni fa. Questa edizione parte dalla Sicilia l'11 luglio e termina a Torino il 20 luglio. Le tappe sono una di seguito all'altra, quindi dalla Sicilia ci fermiamo in Calabria, poi dalla Calabria alla Puglia, dalla Puglia all'Umbria, dall'Umbria alle Marche, dalle Marche all'Emilia-Romagna e poi, per chiudere, a Torino, l'ultima tappa in Piemonte il 20 luglio. Nel complesso quante sono le tappe? Le tappe sono 9. I film proposti? Quest'anno, per il 18° anno di Libero Cinema in Libera Terra, abbiamo fatto la scelta di privilegiare lo sguardo femminile. Quindi presentiamo 6 opere prime di registe italiane insieme ad altre visioni. Quindi saremo Giovani e Bellissimi di Letizia La Martire, Nico di Susanna Nicchiarelli, Amanda di Carolina Cavalli, Settembre di Giulia, che è il film che ha vinto 2 David di Donatello, e aprirà la rassegna di cinema. Abbiamo anche Il Cerchio di Sofì Chiarello, e insieme a questi titoli Libero Cinema propone anche delle altre visioni. Abbiamo inserito nel programma di quest'anno di Libero Cinema in Libera Terra alcuni lavori, alcuni cortometraggi che sono stati realizzati nella provincia di Lecce con 3 scuole, una elementare, una media e una superiore, un progetto seguito sempre da Cinemovel che si chiama Schermi in Classe, e i 2 cortometraggi che sono stati fatti dalle ragazze e dai ragazzi faranno parte della nostra programmazione, per cui vedremo anche questi 2 titoli, Semi di Poesia e Passaggi, che sono opere collettive realizzate con Cinemovel durante l'anno scolastico. I luoghi delle tappe? Dove siamo a Messina è un campo, è un bene confiscato ed è un terreno agricolo. A Modica saremo nel quartiere Trepiedi, dove lavora un'associazione per l'inserimento e l'accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi. Poi a Polistena siamo in Piazza della Repubblica insieme alla cooperativa Valle del Marro, che è una cooperativa che lavora sui terreni confiscati all'Ndrangheta. A Caprarica di Lecce, in associazione con il comune di Caprarica, saremo nel centro della città per presentare i lavori fatti dalle ragazze e dai ragazzi di cui parlavo prima. Poi saremo ad Ancona, nel cortile della scuola, dove d'inverno facciamo schermi in classe, poi a Perugia, nel quartiere Birago, ancora a Sorbolo, in provincia di Parma, e poi a Torino saremo nel cortile della parrocchia Sacro Cuore, che era la sede del Cinema Cuore, chiuso ormai da tanto tempo, dove Libero Cinema riporta lo schermo e la magia del cinema sul grande schermo. I riferimenti web per i dettagli del programma? Ah, c'è un'altra cosa che abbiamo lanciato quest'anno ed è la prima volta al cinema, in cui invitiamo tutte le spettatrici e gli spettatori a venire sotto lo schermo di Libero Cinema e a raccontarci la loro prima volta. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.cinemovel.tv. 18esima edizione del Festival itinerante Libero Cinema in Libera Terra, dall'11 al 20 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Elisabetta Antonioni di Cinemovel. A presto! Grazie mille, vi aspettiamo le nostre proiezioni, buona visione e buona estate. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.